Benvenuti a tutti, nuova stagione di NBA Week, la trasmissione settimanale sul campionato NBA 2017-2018. Ritorniamo dopo un'estate di incertezze e di dubbi, dopo una prima stagione percorsa come esperimento web radiofonico, grazie alla fiducia offerta da Radio Big World, con la quale produciamo ufficialmente questo format anche quest'anno, e grazie alla disponibilità di Belli 13 e del suo canale YouTube, che settimanalmente ci offre un importantissimo spazio di visibilità. Quest'anno un'altra piccola novità anche a livello di diffusione: NBA Week sarà anche trasmessa settimanalmente nel flusso streaming di Radio Valdarno e poi disponibile in podcast all'interno del sito web della radio stessa, uno spazio in più sicuramente importante. Ma veniamo ed iniziamo col presentare questa stagione in via di definizione, visto che quest'estate di cose ne sono successe veramente tante, principalmente a livello di mercato. Difficilissimo, se non impossibile, restando nei tempi concessi, raccontare tutti i movimenti e i cambiamenti avvenuti. Più interessante partire da un'analisi delle squadre che maggiormente hanno cambiato, quelle squadre che maggiormente si sono rinforzate e che quindi si presentano ai blocchi di partenza per la stagione 2017-2018 con speranze rinnovate, obiettivi mutati o ridimensionati. Due parole però per iniziare sui Golden State Warriors, i campioni in carica reduci da una convincentissima vittoria in finale contro LeBron James e Cleveland Cavaliers. L'aggiunta di Kevin Durant, che lo scorso anno ha fruttato una stagione di successo tutto sommato senza troppi affanni, è probabilmente destinata a riconfermarli come squadra favoritissima anche oggi. La Western Conference si è però notevolmente rinforzata quest'anno, il che renderà un minimo più stimolante il confronto playoffs. Ognuno di noi tifa per qualcuno nel suo privato e probabilmente in tantissimi vorremmo vedere impegnati per davvero e con difficoltà questo autentico Dream Team moderno. Chissà se ce la faremo quest'anno. Intanto i campioni hanno rinnovato con un super contratto Stephen Curry e con un contratto tra virgolette scontato Kevin Durant, oltre che Iguodala, Livingston, Pasciulia, West e Javalone McGee. Hanno inoltre trovato il modo di aggiungere Omri KSP e Swaggy P Young dei Lakers al loro roster, non malaccio se si pensa che comunque quel roster era già rasentante la perfezione l'anno scorso. Restiamo ad Ovest. Avete presente la cosiddetta squadra sorpresa dello scorso anno, quella che ha dovuto piegarsi all'esperienza degli Spurs solo ed unicamente perché il suo leader, James Harden, ha perso un po' la mano nei momenti decisivi della serie dei playoff passati e non ha trovato abbastanza aiuto da un supporting cast che solitamente la metteva da 3 quando in serata da più o meno ovunque. Quelli erano e sono gli Houston Rockets, quelli guidati dal coach dell'anno uscente Mike D'Antoni, che si presenteranno ai blocchi di partenza per la nuova stagione con l'aggiunta di Chris Paul, quello che è probabilmente il miglior playmaker puro della Lega anche quest'anno. Perso Lou Williams è rimasto comunque Eric Gordon, da sommare al recupero definitivo di un nene a tratti decisivo lo scorso anno ai playoffs e soprattutto l'arrivo di PJ Tucker. Il sogno, più che probabile dopo il colpo CP3, sembrava essere anche l'aggiunta di Carmelo Anthony, che però si è accasato in altri lidi. Lui forse è la pedina mancante per rendere Houston contender conclamata. In realtà, considerando comunque l'ottima stagione trascorsa qualche mese fa, l'aggiunta di Paul è clamorosa e se coach D'Antoni saprà ben amalgamarlo con un Harden che lo scorso anno aveva comunque mostrato di non trovarsi assolutamente male con la palla in mano da subito nelle azioni, sarà squadra che saprà far divertire. Dove è andato quindi Carmelo Anthony? La risposta la sapete tutti. Melo è riuscito a scappare da New York ed ha scelto la stessa destinazione che aveva selezionato qualche mese prima Paul George. Non certo un giocatore di seconda fascia, quindi due tra i primi 10 attaccanti più devastanti della Lega hanno deciso di affiancarsi a colui che lo scorso anno è stato nominato l'MVP della stagione, quello che ha battuto il record storico di triple doppie in una stagione, che ha viaggiato con una media appunto di triple doppie a partita, chiudendo anche come capocannoniere stagionale. Sapete che mi sto riferendo del numero 0, Russell Westbrook, e dei suoi Oklahoma City Thunders. Ecco, questo trio è teoricamente offensivamente illegale in tutto e per tutto. Stephen Adams inoltre rappresenta il centro granitico con tendenze circoscritte alla difesa che serve per equilibrare un eventuale quintetto che aspettava un'eventuale sorpresa in arrivo anche nell'ultimo posto disponibile, quello di guardia, che però in realtà non è arrivato e vedremo più avanti. Non sarà facile farli giocare tutti insieme e trovare l'equilibrio per un gruppo dagli ego smisurati e le tendenze di megalomania fuori misurazione, ma se trovassero la magia e riuscissero ad amalgamarsi bene anche ad una settimana dall'inizio dei playoffs, occhio agli Oklahoma City Thunders. Passiamo adesso ad Est, dove le prime due squadre del lotto, quelle che si sono giocate il titolo di conference e l'accesso in finale lo scorso anno, hanno combinato per uno scambio pazzesco, proprio perché è raro vedere due rivali dirette scambiarsi giocatori di primissima fascia. Come saprete, Kyrie Irving non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers e dopo qualche settimana di bizze richiedendo l'ascensione si è accasato a Boston, principalmente in cambio di Isaiah Thomas, l'eroe dei Celtics nella splendida cavalcata dello scorso campionato. Malgrado i rumors e le discussioni che lo volevano vogliosissimo di accasarsi da altre parti, magari verso ovest, LeBron James è rimasto per quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in Ohio, deciso a guidare con Isaiah, che nel frattempo deve comunque recuperare dall'infortunio capitato nella finale di conference dello scorso anno, una squadra effettivamente rinnovata non poco. Nello scambio con Boston è arrivato anche un giocatore potenzialmente fondamentale come il buon Joe Crowder, mentre da New York è arrivato Derrick Rose. Oramai le speranze di rivedere quest'ultimo a livelli altissimi sono probabilmente svanite, tuttavia può essere sesto uomo importantissimo o guadagnarsi il quintetto alternandosi con J.R. Smith. Cleveland appare squadra un po' meno stabile anche mentalmente, perché intanto è necessario vedere come LeBron può convivere con Isaiah Thomas, quanto Kevin Love sarà destinato a restare terzo violino offensivo o meno, quanto Rose può essere ancora giocatore capace di dire la sua oppure svanir definitivamente nell'oblio. Inoltre, il blackout di J.R. Smith e Tristan Thompson nella finale dello scorso anno sono ancora vividi, così come la sostanziale inutilità di Kyle Korver quanto contava. Tuttavia il roster è da top ad est per il quarto anno consecutivo ed ha trovato tempo e modo per rinforzarsi ulteriormente, praticamente all'ultimo tuffo prima dell'avvio del training camp. La notizia bomba infatti è stata l'uscita dal contratto con i Bulls dell'uomo che veniva chiamato Flash, al secolo Dwayne Wade, che ha deciso di ricongiungersi con l'amico fraterno LeBron James, con il quale ha giocato già 4 finali vincendone 2 con la maglia dei Miami Heat. Colpaccio che completa un roster definitivamente rinforzato con incognite relative a limiti caratteriali o di età di cui abbiamo appena parlato, ma che comunque è ben ampio e variegato da dover garantire o poter garantire sempre alternative possibili. Tra l'altro da dire che Dwayne Wade sembrava che a un certo punto potesse accasarsi anche lui a Oklahoma City, che avrebbe trasformato la squadra di Russell Westbrook è una squadra assolutamente super contender ovest. In realtà trasforma i Cleveland Cavaliers in quella che potenzialmente è la migliore squadra della Eastern Conference. Ma attenzione, parliamo invece dei Boston Celtics, quelli che lo scorso anno erano apparsi come squadra ben organizzata a livello di struttura di gioco, che si trova totalmente rivoluzionata. Kyrie Irving, si è già detto, è giocatore franchigia per eccellenza e lo sarà finalmente di nuovo, e accanto a lui avrà un ottimo giocatore come Gordon Hayward, arrivato quest'estate da Utah, destinato a vestire i panni del secondo violino di gran lusso. Inoltre Boston si è portato a casa la terza scelta assoluta dell'ultimo draft, l'ala piccola Jason Tatum, proveniente da Duke, perdendo però un giocatore lo scorso anno fondamentale come Avery Bradley. Insomma, rispetto all'ottima stagione dello scorso anno, per i Celtics sono rimasti solamente in 4 giocatori, tra cui Al Horford e Marcus Smart. Anche qui sarà un lavorone amalgamare i nuovi con i pochi vecchi e ridistribuire le gerarchie di squadra. In ogni modo, d'occhio, Boston sembra capacissima di competere ampiamente contro Cleveland in un'ipotetica finale di conference che ad est appare già scritta. Parliamo per un attimo anche dei San Antonio Spurs. Se guardiamo alle previsioni e dai power ranking di avvio di stagione, li troviamo molto sotto rispetto a quelli degli anni passati. Sarà per un risultato forse stagionale deludente dello scorso anno, appunto, anche se dobbiamo considerare gli infortuni occorsi, sarà forse per un roster troppo vecchio dove effettivamente Parker, Gasol e Ginobili, a proposito, grazie Manu per essere rimasto un altro anno in più, possono garantire ben poco, quantomeno sono sempre a rischio e acciacco vista l'esperienza che portano con sé. Di fatto però stiamo parlando di una squadra con Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge e il signor Greg Popovich in panchina, che ha aggiunto al roster Rudy Gay ed il playmaker Murray da affiancare a Perry Mills in attesa quantomeno del rientro di Tony Parker. Come spesso accade al momento, questa è una squadra che ad ovest calcolano in pochi, ma potrebbe ampiamente giocare un ruolo che per la verità negli ultimi anni non hanno praticato moltissimo, di sorpresa o di outsider che dir si voglia, ammettendolo, ripeto, che possa considerarsi tale una squadra allenata da Greg Popovich, con all'interno del roster il potenziale MVP stagionale, e mi sto riferendo al numero 2 con le treccine. Ed i Minnesota Timberwolves invece, sulla carta, squadrone più che futuribile finalmente. In campo ovviamente tutto da vedere, però intanto è arrivato il signor Jimmy Butler da Chicago, potenzialmente un franchise player, un all-star, uno di prima fascia da affiancare a due stelle come Andrew Wiggins e Karl Anthony Towns. Già così abbiamo un bel trio assortito che dovrebbe puntare ai playoff ad occhi chiusi e senza problemi. A questi dobbiamo aggiungere l'arrivo di pedine di contorno potenzialmente importanti come Jeff Teague, che sarà playmaker titolare vista la partenza di Ricky Rubio, Ty Gibson, che sarà l'ala grande muscolare felicemente dedita a rimbalzi e gioco sporco, e l'immortale Jamal Crawford, che con il tiro che si ritrova è sicuramente lo specialista ideale per qualsiasi squadra del mondo, quindi utilissimo anche in questo lotto. Chissà se ce la faranno con queste aggiunte a maturare senza rimpiangere gli addii di Rubio e di Zach Lavin. Io, se posso permettermi, scommetterei proprio di sì. Tornando ad est, invece, abbiamo due squadre che lo scorso anno hanno fatto piuttosto bene, come Washington e Toronto, per la verità Toronto un po' meno. Due squadre che hanno confermato molto e che sostanzialmente non hanno cambiato niente. Due squadre che forse farebbero meglio a guardarsi le spalle che sperare di agganciare le due che inevitabilmente si trovano davanti anni luce nella Eastern Conference. I Wizards possono tranquillamente confermare il terzo posto ad est, ma con questo roster hanno i numeri per fare poco di più, considerando che non hanno aggiunto un centro tra i top di categoria, la soluzione che a mio avviso avrebbe garantito un certo salto di qualità. In più si sono persi Brandon Jennings e Bojan Bogdanovic, due giocatori che forse potrebbero rimpiangere, in particolare il secondo. Toronto invece si ripresenta identica allo scorso anno, con una difesa tutta da inventare ed il solito duo, DeRozan e Lowry, da coadiuvarsi con Serge Ibaka. Nient'altro di più che una buona squadra che farebbe meglio a guardarsi indietro, a guardare quindi ai Bucks di Giannis e Jabari Parker, piuttosto che sperare in un ritorno in finale di conference. Anche quest'anno c'è da parlare inoltre dei Philadelphia 76ers e non potrebbe essere altrimenti, considerando che Philly si è portata a casa anche la prima scelta di questo ultimo draft e che quella dello scorso anno ha ancora da esordire. Avete infatti presente la prima scelta del draft dello scorso anno, Ben Simmons? Bene, ha già esordito in pre-season perché appunto nella stagione precedente, come da evidente tradizione sixeriana degli ultimi anni, non ha giocato causa infortunio. Sembra invece che al momento tale tradizione possa essere sfatata dalla prima scelta assoluta dell'ultimo draft, Markel Fultz, che ha già esordito anche lui e che siamo tutti curiosissimi di vedere in azione, considerando che a livello di hype è stato spazzato via da Lonzo Ball tra le nuove scelte, soprattutto dalla propaganda che ne sta accompagnando l'esordio. Se ve ne stavate dimenticando, comunque, questa squadra lo scorso anno ha fatto esordire un tale Dario Saric e pure un tale Joel Embiid, quest'ultimo seppur per poco. Sembra quindi che possa essere ben più che futuribile a livello di roster, anche perché dalla panchina partirà Jalil Okafor e l'ottimo, almeno lo scorso anno, Robert Covington, con il neo acquisto Amir Johnson e l'altro veterano appena arrivato JJ Redick, che sarà il collante d'esperienza per un quintetto potenzialmente esplosivo, per quanto evidentemente acerbo. Chissà se possiamo già definire Philadelphia 76 squadra sorpresa dell'anno. Sicuramente si tratta di una squadra curiosa e forse piacevole da vedere, soprattutto all'inizio. Chiudiamo ad ovest con tre grandi incompiute, che ovviamente se fossero ad est potrebbero puntare tranquillamente alle semifinali di conference. Si tratta dei Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans. Partiamo dai Clippers. A parte l'arrivo di Danilo Gallinari, almeno personalmente l'acquisto che maggiormente mi stimola l'osservazione e che già nella preseason qualcosina l'ha fatta vedere è quell'autentico genio di Milos Teodosic, all'esordio in NBA. Chissà se ce la farà ad emergere, sicuramente all'inizio partirà dalla panchina, ma è il naturale e potenziale sostituto del partente Chris Paul. Per il resto i Clips sono solidi sotto canestro, con Jordan e il duo Danilo Gallinari e Griffin. Ignoranti con l'arrivo di Patrick Beverley e con un Lou Williams che può, anzi deve, portare tanti punti dalla panchina come è solito fare. Di Redick e Crawford forse non se ne sentirà la mancanza, senza Paul però indubbiamente le velleità di successo si limitano di conseguenza, ma del resto è inutile parlare di obiettivo titolo come fatto negli ultimi anni, quando la realtà poneva questa prospettiva ben più irreale di un miraggio nel deserto. Per i Pelicans delle Twin Towers invece si riprende con l'arrivo di un redivivo Rajon Rondo, redivivo nel senso che per il poco che ha fatto vedere con i Bulls nella post-season passata e soltanto lì, potrebbe anche aver tanto da dare se affiancato appunto ad Anthony Davis e DeMarcus Cousins. Secondo me ad est questa squadra avrebbe potuto ampiamente sperare di dire la sua, mentre ad ovest la situazione un attimino si complica. In realtà sarà comunque un cliente piuttosto scomodo da affrontare per bipolarità e potenziale letale, anche se bisogna augurarsi che gli equilibri mentali si mantengano stabili. Portland invece riparte forte del trio Damian Lillard, CJ McCollum e Yusuf Nurkic. Non è assolutamente male per sperare di qualificarsi alla postseason, manca qualcosa rispetto al salto di qualità sperato. Inevitabile del resto, trattandosi in sostanza della squadra che ha concluso la scorsa stagione. Ora io dirò una cazzata, ma vi immaginate questa squadra se fosse rimasto la Marcus Aldridge che decise ai tempi di fare i bagagli per accasarsi alla corte di Greg Popovich? Non sarebbe stata assolutamente malvagia per niente. Chiudiamo ricordandoci di qualcuno, probabilmente ce l'eravamo dimenticato, in realtà no. Che ne dite dei due mercati economici più importanti di America? Due paroline quindi sui derelitti New York Knicks e sui rinnovati, e ben ancora rinnovabili, Los Angeles Lakers. Non voglio fare proclami o previsioni su Lonzo Ball, che a me personalmente ha già sfracassato i cosiddetti, tanto per restare in tema di Bulls, fin dal pre-draft. E forse la colpa non è neanche sua, anzi indubbiamente, ma è proprio di tutto il contorno. Fatto sta che i Lakers sono attesi ad un'ennesima stagione di transizione, sperando di aumentare la propria appetibilità, ma comunque la città è già di per sé sufficiente, e anche la storia di quella maglia, per far sì che alcuni dei grandissimi free agent della prossima stagione possano decidere di fare i bagagli verso questa parte di Los Angeles. Intanto c'è tantissima curiosità di valutare progressi e potenziale di Brandon Ingram, che dovrebbe, si dice, essere anche cresciuto in altezza. Poi c'è da valutare anche l'impatto di un giocatore abbastanza piatto ma concreto almeno statisticamente come Brook Lopez. In realtà questa non è squadra che può sperare nei playoff, soprattutto l'Ovest, ma che comunque potrebbe essere approdo desiderabile per grandi nomi nei mesi prossimi. Vediamo quello che succede. Per quanto invece riguarda New York Knicks, via Carmelo Anthony, via Derrick Rose, via Phil Jackson, fossero riusciti a liberarsi anche di Noah, avrebbero fatto assolutamente bingo. In realtà abbiamo una squadra che ha strapagato un giocatore che avevano già in mano tempo fa, cioè Tim Hardaway Jr. La star attesa alla consacrazione effettiva è Kristaps Porzingis, e se avete visto giocare la Lettonia all'europeo estivo appena conclusosi, sapete che il ragazzo appare in gran forma, se non in evidente crescita. Lo accompagnerà nel front court Enes Kanter, che è arrivato con l'operazione di passaggio di Anthony a Oklahoma City. Un po' poco? Assolutamente sì, anche guardando al futuro e ad una prospettiva di ricostruzione. Ancora troppo lontana quindi la luce in fondo al tunnel per poter vederne la fine. Benissimo, staremo a vedere che ci riserverà questa stagione, che sta inevitabilmente per iniziare, per fortuna aggiungo. Intanto non cambiano comunque gli appuntamenti con NBA Week, tutti venerdì sera su Radio Big World nel flusso streaming, tutte le settimane nel canale YouTube di Belli 13 e da quest'anno, come già detto, anche in streaming e in podcast su Radio Valdarno, un nuovo partner di cui parleremo forse più approfonditamente nella prossima puntata. Ovviamente citando anche gli altri ed approfondendo meglio appuntamenti e contatti. Seguiteci quindi sulla nostra pagina Facebook NBA Week, dove pubblicheremo aggiornamenti ed informazioni varie. Ci sentiamo tra 7 giorni con l'avvio finalmente della stagione 2017-2018. Grazie a tutti, arrivederci.